Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico. Allora, benvenuti a Giochi sul nostro tavolo. Siamo qui oggi con Paolo Mori. Non c'è nemmeno bisogno che ve lo sto a presentare. È la seconda volta che registriamo, perché la prima volta è andata male. Peccato, perché ho detto delle cose veramente bellissime e tutte queste cose andranno perdute come lacrime nella pioggia. Benissimo, vai, partiamo subito dicendo la cosa che, come dire, caratterizza Paolo quest'anno è sicuramente l'essere stato nominato e aver vinto per lo Spiel des Jahres e aver vinto il gioco dell'anno. Vogliamo parlare di questi due premi? Cioè, ci vuoi dire qualcosa su come sono andati, come ti sei sentito, insomma? La cosa bella è che in questa seconda intervista mi fai anche delle domande diverse dalla prima, quindi non posso neanche sfruttare le cose già dette. No, sì, è stato un anno molto positivo dal punto di vista delle gratificazioni, diciamo, della mia carriera tra virgolette di autore, perché ho avuto, diciamo, appunto la soddisfazione di entrare tra i tre finalisti dello Spiel des Jahres, che è il gioco dell'anno tedesco, e di essere il primo vincitore del rinato gioco dell'anno italiano, che è nato appunto quest'anno con l'idea di essere il corrispettivo nostrano del premio tedesco, diciamo, con le stesse finalità. E entrambe queste gratificazioni me le sono prese con un gioco che è il gioco forse più facile che ho fatto fino ad oggi, che era Augustus. E insomma, quindi è stato un anno, diciamo, molto molto positivo, due esperienze molto diverse, anche con due mondi molto diversi come sono quelli della Germania e quelli dell'Italia, però insomma un anno molto molto bello. E questa è la prima, non so se vuoi sapere di più. Ah, ecco, hai giustamente accennato che è il gioco più semplice. I più attenti avranno notato che nell'arco del tempo tutte le tue produzioni sono andate verso una semplificazione, partendo magari da gestionali un po' più complessi, magari anche con tempi di gioco più lunghi, pian pianino, passando per esempio, primo che mi viene in mente, per Libertalia, che forse è un punto di incontro fra qualcosa di un po' più profondo e Augustus, fino ad arrivare ad Augustus. È una linea che stiamo vedendo oppure così è una casualità? Sì, no, c'è è un'analisi corretta, penso, nella mia piccola produzione. Si vede che è studiato. No, sì, è vero, è vero. Faccio fatica in realtà a trovare una motivazione vera, cioè una consapevolezza, diciamo, nelle scelte di design. Credo che a prendere questa scelta per me sia stata un po' la mia vita, no? Che diventa sempre più complessa, come le vite di chi mette su casa e di chi ha una bimba, e quindi insomma, per cui trovo sempre meno tempo da dedicare al gioco da tavolo e quindi di conseguenza anche alla creazione dei giochi da tavolo. E in qualche modo mi sono messo a fare dei giochi che penso di riuscire a giocare e che penso di godere, diciamo, nel giocarli. Quindi in qualche modo, se prima la mia testa poteva sopportare più facilmente, poteva trarre un maggiore coinvolgimento nel giocare giochi di una certa difficoltà, adesso faccio sempre più fatica, per cui mi sposto sempre di più verso giochi più semplici e meno impegnativi dal punto di vista del coinvolgimento mentale. Quindi sempre meno matematica, sempre più istinto, quindi è allo stesso modo un po' dal punto di vista dell'autore, sul versante dell'autore del game design. Quindi non riesco a vedere, se vogliamo, un altro Vasco da Gama, un altro Ura all'orizzonte nella mia produzione, anche se mai dire mai, ecco. Insomma, Paolo, hai messo su una famiglia da gamer, sei diventato family gamer. Sì. E quindi fai family games. Sì, in qualche modo direi che è una analisi appropriata. Dovete sapere che in realtà siamo qui dal vivo, è una delle prime interviste che faccio dal vivo, quindi non via Skype, non via telefono, perché stiamo andando tutti quanti Idea G a Torino, siamo in macchina, ce la guidiamo e quindi abbiamo detto facciamo questa intervista. Quindi ecco, Idea G sicuramente ti ha accompagnato dai primi albori sia di Idea G sia di te come autore, fino ad arrivare al decimo anno di Idea G e anche un po', diciamo, alla coronazione di questo anno, che è andato molto bene per te. Ci vuoi parlare del tuo rapporto con questa manifestazione? E come dicevi bene, sono due storie che vanno in qualche modo a braccetto, quella mia come autore e quella di Idea G e di inventore di giochi, che io accosto sempre a Idea G. La prima edizione di Idea G è stata nel 2005, pochi mesi prima, nel 2004, era nato il sito inventoridigiochi.it, che è un po' la comunità sul web italiana degli autori di giochi da tavolo, e io ho messo su inventoridigiochi.it, ho creato inventoridigiochi.it che ancora non era autore. Ero molto affascinato da questo mondo, avevo un amico che si dilettava anche con qualche soddisfazione come autore, ma io non avevo mai mosso passi in questo campo, però ero molto affascinato. L'anno dopo appunto abbiamo fatto il primo raduno, che era appunto, è stato il primo Idea G a Piossasco. Io sono salito a Piossasco come playtester, quindi semplicemente come giocatore, per un po' capire che mondo era, come lavoravano gli altri, qual era il livello dei giochi degli altri. Dall'anno successivo ho partecipato come autore, e già dagli anni successivi ho avuto la fortuna, che è quella che un po' mi ha contraddistinto in questa carriera, la fortuna di avere un gioco apprezzato da un editore che l'ha pubblicato, che era UR, che è stato pubblicato da What's Your Game nel 2006, e di avere un gioco che ha vinto il premio per il miglior gioco inedito a Lucca nello stesso anno. Quindi è stato un anno che è stato il primo spartiacque, diciamo, nella mia vita di autore. Se non fosse andato così bene quell'anno, non so se avrei proseguito in questa passione o se l'avrei accantonata, come ho accantonato tante altre passioni nella mia vita. Quest'anno siamo arrivati al decimo anno ed è ancora bello che, diciamo, a una cifra tonda corrisponde comunque un anno che è stato un altro passaggio nella mia vita, che appunto è stato quest'anno di soddisfazione dal punto di vista delle pubblicazioni e dei riconoscimenti, insomma. Quindi io lo sento molto legata la mia carriera d'autore a quella di DAG, e in particolare, cioè, e attraverso questo, diciamo, anche a quella di tutti gli altri autori italiani, sia che abbiano già approvato la gioia della loro prima pubblicazione, sia che ancora non l'abbiano provata. Insomma, mi sento molto molto legato alle sorti degli autori italiani, in qualche modo. Non a caso questo inventore di giochi non è stata una meteora che si è spenta subito, ma anzi nell'arco del tempo ha collezionato non solo tanto materiale, tanti discorsi fatti nel forum, ma anche proprio tante persone che si iscrivono anche con la voglia di voler dialogare. Sì, la cosa bella è, naturalmente, ultimamente in realtà faccio sempre più fatica anche a seguire gli aspetti amministrativi di questa, diciamo, web community, che andrebbe seguita sicuramente con più dedizione. Però la cosa bella è vedere comunque il ricambio, no, su queste pagine, per cui a fronte di alcuni abitué che rimangono negli anni a dare man forte al sito, a supportare anche gli autori esordienti, è bello vedere che si affacciano sempre dei nuovi autori con la rinnovata passione, che quindi, insomma, fanno capire che è uno strumento che ha sempre ragione di esistere, ecco, insomma. Quindi siamo molto, il motivo per cui ogni anno la mia piccola parte di rinnovare il costo dell'hosting del sito, no, lo faccio molto volentieri, perché, insomma, significa che evidentemente che è una cosa che viene ancora apprezzata, ecco, anche se tenuto in vita dagli interventi delle altre persone e non dalla mia dedizione. Senti, ma proprio perché ci parli dei nuovi che arrivano nel sito Inventori di Giochi, vogliamo parlare della domanda che tutti i nuovi fanno? Quale? Perché ne conosco almeno due o tre, diciamo, sono due o tre domande ricorrenti. Allora, la domanda la facciamo, allora, la madre di tutte le domande è sottointeso, ho fatto il gioco del secolo, cosa che a volte non viene detta, diciamo, mai sottointeso, ho fatto il gioco del secolo, come posso fare perché nessuno me la rubi? Ok, questa è la madre di tutte le domande. Basterebbe questa FAQ e metà degli interventi sul forum degli esordienti verrebbero meno. E la risposta è in qualche modo il sito stesso, no? È il sito stesso, IDEAG stesso come esperienza. Ossia non è possibile, o meglio, condividere il più possibile in qualche modo. Nel senso che questo mercato è... c'è questo, il mondo di autori di giochi, adesso lo chiamo mercato perché chi dopo lo vive in un certo modo lo vive anche, diciamo, dal punto di vista della gratificazione economica in qualche modo, anche, cioè apprezza anche questo aspetto, diciamo meglio. Il mondo degli autori di giochi e anche degli editori è un mondo, non è un mondo di squali, ecco, un mondo di appassionati, di persone, normalmente persone molto belle, persone molto amichevoli e molto disponibili ad aiutare, per cui non ho ancora conosciuto in 10 anni, so che esistono, che sono esistiti casi, ma secondo me statisticamente che incidono molto meno che in qualsiasi altro campo della conoscenza o dell'economia, non esiste l'autore pronto a rubarti l'idea appena tiri fuori il gioco dalla scatola, e non esiste l'editore pronto a fare la stessa cosa quando gli mandi un'email spiegando la tua innovativissima idea di gioco. Ecco, quindi non preoccupare, il tuo gioco non può essere protetto legalmente. In questo ci potrebbe dare una mano il nostro amico avvocato Gabriele Bubola, che sta viaggiando con noi ma che purtroppo non è dotato di cuffie, e quindi non può essere difeso legalmente in maniera valida, e quindi lascia perdere e muoviti al contrario, cerca di condividere il più possibile, in modo che se per caso incontri l'unico stronzo di turno che ha cercato di rubarti l'idea, hai modo almeno di dimostrare che l'avevi fatto giocare a suo tempo e l'avevi condiviso con altri. Ma ripeto, è molto molto difficile che questo accada, che qualcuno venga a rubarti l'idea. Ancora più difficile è che il tuo gioco, il tuo primo gioco... Ah, certo, naturalmente... Esatto, normalmente, probabilmente il tuo primo, allora diciamola così, è difficile che il tuo primo gioco sia il gioco del secolo, non solo, è difficile che sia il gioco dell'anno, non solo, molto probabilmente è un gioco di merda, e quindi fatene una ragione. Questo mio amico con cui ho mosso i primi passi del game design, che era il mio amico Javest, al secolo Andrea dell'Asta, è molto, diciamo, saggio, si esprime sempre con queste pillole di saggezza, e usava per... mutuava una massima del Go, che era: perdi alla svelta le tue prime 100 partite anche per il mondo del game design, ed era: butta alla svelta i tuoi primi 100 giochi, no? Per cui tieni conto che i tuoi primi 100 giochi probabilmente avranno qualcosa che non funziona e che piaceranno solo a te. Quindi insomma, tenete conto che, cioè, dovete aver giocato veramente molte cose prima di muovere i passi nel mondo degli autori, ecco. Questo è, diciamo, la prassi. Poi capitano naturalmente anche casi eclatanti di intuizioni geniali e di giochi bellissimi, ecco, quindi mai dire mai anche in questo caso. Ce n'era un'altra di domanda ricorrente? E allora, diciamo, appunto, la difesa del gioco, e poi quanti soldi si fanno, come si diventa ricchi in particolare normalmente, o tutti guardano molto avanti, sono sempre molto lungimiranti, e naturalmente la risposta è che molto molto difficilmente si diventa ricchi, o la passione, diciamo, quella che è, diciamo, il mondo del... la passione per il game design si può trasformare in una professione a tempo pieno che ti porta a casa la pagnotta. Anche in questo caso esistono i casi di autori che vivono solo il game design, in Italia pochissimi, all'estero di più. E se avessi vinto lo Spiel des Jahres, ammetto che avrei pensato almeno ad andare part time e a provare a dedicare un po' del mio tempo a questa diciamo semi professione. Non è così, per cui sarà ancora il mio alias, diciamo il mio alter ego, quello di autore di giochi, e non lo farò, penso, mai a tempo pieno. Per cui è molto difficile che il vostro gioco del secolo riesca a sfamare voi e la vostra famiglia. Diciamo queste due. Queste due, dai, di base. Sì, anche perché di solito la terza non è una domanda, ma è piuttosto: ho fatto. È una dichiarazione, cioè ho fatto. una versione più figa del Monopoly barra del Risico. Allora sì, la terza risposta a qualsiasi domanda sia è normalmente è esiste già. Ok, cioè tu puoi fare la domanda che ne hai voglia, normalmente il forum, la risposta che si riceve sul forum è esiste già, no? È una sfilza di link per guardare giochi che sono molto simili al tuo. No, molto probabilmente il tuo gioco non è originale, ma fattene una ragione: viviamo nell'epoca dell'ars combinatoria. Un gioco bello è una combinazione molto spesso di una combinazione originale di elementi già visti in passato, e anche questa è in qualche modo creatività. Poi escono per fortuna ogni tanto dei capovolgimenti di paradigmi, nuove meccaniche, il worker placement, il deck building, il concetto del legacy, no, di risk legacy. Insomma, esistono delle cose per fortuna che ogni tanto ti capovolgono la frittata e ti cambiano il modo di pensare ai giochi da tavolo, quindi per fortuna esistono ancora questi. Ma insomma, io sono un fautore dell'ars combinatoria, nel senso non del plagio, ben lontano dall'idea del plagio, però del fatto che in un gioco serve una cosa e mezzo nuova. Cioè serve un elemento nuovo che ti fa dire questo non l'ho mai visto in nessun gioco, e un elemento che ti fa dire questo l'ho visto come in quell'altro gioco, però fatto diversamente. Ecco, secondo me un elemento e mezzo nuovo possono fare che funzionino, naturalmente, che siano belli, fanno un gioco bello. Meno ti dà l'idea del già visto, del giochino da 6,5 che metti via subito. Di più ti fanno l'idea del gioco che è un po' troppo innovativo per quanto mi riguarda. Questo è un po' una teoria un po' strana, una teoria della cosa in mezzo, però insomma è la mia massima del momento. Senti, ma visto che nell'intervista con Paolo Rossi è venuto fuori che lui vuole vincere una... avete intervistato il campione del mondo dell'82, Paolo Rossi. Scusa, Paolo Rossi. Carlo Rossi. Don Carlo Rossi è venuto fuori che lui vorrebbe vincere lo Spiel des Jahres, ma non quello per i giocatori, ma il Kinder Spiel des Jahres. E vista la tua linea, diciamo, verso la semplificazione, stai andando anche tu verso quell'obiettivo oppure no? No, in realtà intanto non sono d'accordo che ci sia una linea continua che parte da Vasco da Gama e porti al gioco per bambini. In realtà secondo me sono in qualche modo, ma secondo me l'aveva spiegato bene anche Carlo Rossi, in realtà, che fare un gioco per bambini in realtà è molto molto complesso, perché deve fare un gioco che accontenti tutta la famiglia in qualche modo, che dia soddisfazione ai bambini ma anche un po' al genitore che gioca con loro. Insomma, tocca delle leve molto diverse da quelle che si toccano nel disegnare un gioco per adulti o per famiglie. Quindi in realtà non penso che ci sia continuità, diciamo, in questa... non c'è una... c'è soluzione di continuità, diciamo, tra questi obiettivi. In realtà no, per quanto riguarda i giochi per bambini io ammetto che è una cosa ancora fuori della mia portata, cioè non ho la testa fatta ancora per queste cose. E come dicevo prima, appunto, spero che questa mia bambina che mi ha preso così tanto tempo in questi 2 anni, che mi ha rubato così tanto tempo alla mia passione per il game design, prima o poi presto diventi anche finalmente una risorsa utile che mi dia qualche stimolo per fare qualche gioco che la possa divertire. Ecco, quindi insomma io spero che presto di potermi mettere anche su questa cosa, ma non è al momento una mia segreta ambizione. Ecco, penso che lascio in questo campo, lascio libero il campo a Carlo Rossi, insomma, che non ha bisogno sicuramente che gli liberi il campo io. Senti, ma per quanto invece riguarda la tua produzione prossima avventura? La mia produzione prossima avventura, allora, per fortuna posso fare un altro anno che, oddio, salvo sorprese, vedrà qualcosa in uscita mio. Perché ho seminato abbastanza bene negli scorsi anni, per cui dovremmo vedere all'inizio di quest'anno, diciamo facciamo nel primo semestre, non saprei, un gioco che dovrebbe essere pubblicato dalla Cool Mini or Not, che è questa editrice americana molto attiva su Kickstarter, ma questo gioco non sarà un Kickstarter, che si chiamerà Dogs of War, ed è un gioco in realtà abbastanza German nei meccanismi, però è un gioco di negoziazione, di battaglie, non è un wargame, è un gioco, diciamo, in cui di piazzamento, che però danno vita a delle battaglie sulla board in qualche modo. È un gioco molto carino, prodotto in maniera eccellente e con tanta plastica anche dentro, molto bello da vedere, che sono ansioso di vedere come verrà accolto. Dovrebbe uscire il quarto set di Pocket Battles, che è questa piccola serie che faccio con Francesco Sierocchi, di un wargame tascabile, e sarà dedicata alla guerra civile americana, su richiesta dei committenti, perché non era un campo in cui ci sentivamo particolarmente ferrati, ma una serie a cui siamo molto affezionati, e che nonostante, diciamo, il poco ritorno e la molta fatica anche dello sviluppare nuove cose, ci teniamo a portare avanti in qualche modo. E poi chissà, purtroppo ultimamente sto facendo un po' fatica, per cui vediamo gli anni prossimi, spero di riprendermi un pochino a partire da queste DAG, di riprendere un po' di stimoli nel fare giochi, e spero in una espansione di Augustus, che nonostante lo spazio nella scatola, nonostante tutti dicano è il gioco fatto per fare delle espansioni, in realtà non è così facile, perché è difficile pensare un'aggiunta che non vada a appesantire il flusso di gioco, il gameplay, perché deve rimanere il gioco che è in qualche modo, non deve diventare un gioco per gamer. E mi sarebbe piaciuto, anzi avevo già fatto un'espansione di Libertalia, e anche lì su richiesta, che però purtroppo per cause di forza maggiore, che esulano dalla mia capacità decisionale, è stata in qualche modo abortita e quindi non vedrà mai la luce. Quindi insomma, questa è una delle delusioni, diciamo, nella mia carriera di autore. Ecco, però insomma ci sta, so che succede, è successo in passato, succederà tante volte in futuro. Speravo di riuscire a farti raccontare qualcosina di più su proprio quello che porti in valigetta da presentare agli editori, piuttosto che quello che... Ah, ok, ah certo. Allora, in realtà IDAG quest'anno in qualche modo si chiude un ciclo, si chiude un cerchio, perché l'ho cominciato come playtester, in qualche modo quest'anno mi sto ritornando, regredendo ancora la situazione di playtester. Io cerco sempre un po' di mancare a vista, cioè di portare qualcosina che mi salvi un po' la faccia, ma in realtà, cioè, diciamo che è qualcosa che riempie la valigia, ma che difficilmente mi salverà la faccia. Nella mia... ho portato un gioco di Mac, di questi Automi, diciamo, è un wargame per due giocatori, diciamo, proprio per di automi robotizzati, proprio un gioco americano puro di battaglia. Una nuova vena, diciamo, che stiamo riscoprendo. Mi sto un po' forse rompendo le scatole di spingere cubetti, diciamo, come dicono gli americani, e di accumulare indaco. Mi piace più menare le mani, per cui è un wargame difficile trovare l'editore interessato, ma cioè, sicuramente non lo vengo a cercare a Torino, diciamo, ma vediamo all'estero se c'è qualcuno interessato. Ho portato un giochino di carte che gira e rigira nella mia valigia da qualche anno, che ci sono due strade possibili: una che è un crowdfunding con cui stiamo esplorando la strada con un amico editore italiano, una invece un altro editore interessato, vediamo se vedrà la luce in qualcuna di queste due forme nei prossimi mesi. E poi ho un gioco di aste per due giocatori, una roba nata per sfida durante un ultimo raduno di autori a Torino, nato in una mattinata prima di andare al raduno, visto che non avevo niente di decente, e l'ho riportato in questa forma. Anche questo è un gioco dal mercato difficilissimo, ma un po' mi dico chi se ne frega, cioè devo ripartire un po' anche da questo tipo di... da fare un giochettino che funziona, che mi diverte provarlo, e poi anche se non ha successo dal punto di vista editoriale, un po' in questo momento amen, insomma. Quindi ti posso dire quello che ho in valigia, non ti posso dire quello che uscirà sugli scaffali nei prossimi anni, ecco. Non mi sento assolutamente ferrato da questo punto di vista. Bene, questa domanda te l'ho fatta piuttosto anche per far capire ai nostri ascoltatori che chi sviluppa giochi lo fa sia che lo faccia in maniera professionale come Paolo, sia che lo faccia in maniera amatoriale, sicuramente non ha un unico gioco che sviluppa finché non lo finisce, probabilmente ha vari rami che cura con pazienza uno dopo l'altro, e quindi magari ci possono essere 4-5 giochi in sviluppo piuttosto che 2, piuttosto che 3, e invece, ecco, tu Paolo come ti muovi? Altro che 3, altro che 4, io ho una marea di cassetti che per fortuna adesso sono file, diciamo, sul mio drive in remoto, aperti, cioè che aggiorno in continuazione quando mi vengono dei pezzi nuovi di idee, per cui io ho tante idee, diciamo, embrionali o in sviluppo assieme. Questo è in realtà un boomerang, non posso dire per certo che sia il metodo migliore, in realtà ognuno deve un po' seguire la propria, forse, forma mentis in questo, nel senso che prima, quando avevo più tempo a dedicare a questo tipo di lavoro, di attività, era sicuramente, lo sentivo come un modo di lavorare, mi buttavo su un gioco, lo sviluppavo, mi piantavo, ne avevo già uno aperto che tanto mi veniva in mente, sviluppavo quello, poi in qualche modo magari combaciavano delle cose, ne ammazzavo uno per portarlo in un altro gioco, insomma, non era molto metodico come lavoro, diciamo, ma in qualche modo funzionava e portava frutto. Adesso che il tempo a disposizione si è ridotto drasticamente negli ultimi anni, ammetto che appunto si rivela l'aspetto di boomerang di questo non metodo, nel senso che appunto ho dato un nome nelle ultime settimane a questo mio blocco nel game design, che l'ho chiamato la sindrome di Buridano, perché riprendo un po' il paradosso dell'asino di Buridano, che era quest'asino che, avendo di fronte a sé due mucchi di fieno ugualmente golosi, ugualmente belli, ugualmente distanti, e moriva di fame perché non sapeva scegliere. In qualche modo io mi trovo davanti a una quantità di idee che mi sembrano tutte in qualche modo promettenti, poi probabilmente non è vero questo, però mi sembrano, diciamo, in questa fase tutte ugualmente promettenti, ugualmente interessanti. In particolare, nel momento in cui mi avvicino una, mi sembra più bella quella che avevo abbandonato, oppure mi sembra più promettente un'altra che mi viene in mente, e quindi alla fine muoio di fame, ovvero non sviluppo più un gioco perché non so e decidere dove mettere la mia testa e mettere il mio tempo, insomma. Quindi probabilmente devo decidermi a cambiare in qualche modo metodo, o meglio a darmi un metodo diverso, quindi a concentrarmi su una, due idee e lavorare su quelle fino a quando, diciamo, sono arrivato a una conclusione che può essere positiva o negativa. Quindi un po' di giochi sì, però con moderazione, senza esagerare. E direi di sì, cioè è impossibile, c'è chi lo fa, io ho visto gente che arrivava a Essen con 15 giochi nella valigia e che magari li piazzava in qualche modo tutti, cioè Walter stesso, ma complici anche, diciamo, una propensione alle collaborazioni, quindi è più facile per chi lavora insieme ad altri. È andata, penso, all'ultima Essen con 10-12 giochi in valigia e ognuno ha avuto in qualche modo una sua storia, un suo successo. Adesso non dico che verranno pubblicati, però insomma un suo apprezzamento, diciamo. Quindi non dico che non sia un metodo che funzioni. Per me ultimamente non sta tanto funzionando, però mi piacerebbe tornare qui a quella fase. Ecco, i miei file sul Google Drive mi aspettano, sono lì ogni giorno che mi guardano, e insomma qualcosa riuscirò a esportarlo, ecco, prima o poi. Per quanto riguarda il tempo che dedichi al playtest, principalmente i tuoi giochi si creano attraverso il playtest, oppure partono già che un po' di sfrondature, un po' di playtest mentale l'hai già fatto? Allora, i miei giochi partono sempre per rapporto dialettico, che sia che attraverso il playtest che sia attraverso la discussione, nel senso che molto facilmente quello che succede è che ho un'idea, apro una finestra di chat per parlarne con uno, due o tre amici sfaccendati che mi dicono sì, bello, no, l'ho già visto, no, fa cagare. Normalmente ci sono qualcuno che mi dice fa cagare, allora è un buon motivo per insistere su quell'idea, no, perché so che hanno gusti molto diversi dai miei, oppure so se ci sono delle cose da accantonare subito, gli vengono in mente delle cose che mi dicono, che magari scarto, insomma così, però la prima cosa nasce per questo rapporto dialettico. Dopodiché mi apro il mio file, mi butto dentro le mie idee, me lo gioco in testa, cioè cerco di farmi avere una cosa mentale in testa di come funziona questo gioco dall'inizio alla fine, cerco di porre molto accento sulle scelte dei giocatori, no? Su che ci sia un aspetto di scelta molto forte dei giocatori, no? Di sacrificio, cioè faccio questo o faccio questo, se faccio questo però non faccio questo, oddio, allora adesso cosa faccio? Quindi prima possibile a un playtest, ultimamente a un unico, che qui è l'unico playtest, perché magari non ho saputo valutare bene tutte le cose di cui sopra, magari lo giudico fallimentare e giudico il gioco non meritevole di andare oltre, ecco. Però sì, diciamo che per me il grosso viene fatto attraverso il confronto con gli altri, che siano altri autori o altri giocatori. Ultimamente poi devo anche ottimizzare il tempo dedicato ai playtest, nel senso che ho rarissime occasioni di testare, per cui devo sfruttarle al meglio, che più che vuol dire che più che nell'ottenere feedback corposi, no, chiedere domande, fare calcoli statistici successivamente, e magari lo vedo anche appunto per il tipo di giochi che faccio ultimamente, nelle facce che fanno e nella tensione che provano, nel coinvolgimento che vedo, diciamo, che hanno i playtester nel giocarlo. Quindi non so se ho risposto pienamente alla domanda, ecco. Ho aggiunto un po' di cose che forse non c'entravano, però insomma che fanno un po' parte della mia... Mi hai un po' preceduto, perché ti volevo chiedere come organizzi, diciamo, i playtest, ma soprattutto come sei riuscito nell'arco degli anni a convincere le persone a playtestare i tuoi giochi, o comunque a creare un gruppo entusiasta nel playtestare. Allora, io non ho un gruppo di playtest. Io ho un gruppo di amici con cui mi trovo una volta a settimana, che purtroppo è poco, a giocare, e quindi non sempre ho la faccia tosta di infilare tra un gioco che funziona e un altro gioco che funziona un gioco che non funziona, perché so che per tutti è un'occasione rara, un'occasione di svago, e quindi non sempre me la sento di farli lavorare. Ultimamente, naturalmente, negli anni mi sono guadagnato un pochino di fiducia, per cui se propongo un gioco è difficile che mi dicano, cioè che mi guardino con sospetto, come se il gioco possa fare proprio cagare. Poi magari non è vero, fa cagare davvero, però insomma è per questo che è meglio che mi giochi bene le mie carte. Però non ho un gruppo di playtest, ho un gruppo di amici con cui gioco a giochi che giochi pubblicati, e ogni tanto ci filiamo un playtest. Ultimamente sempre meno, ultimamente faccio anche fatica a trovare, a reclutare, perché le vite di tutti diventano sempre più complesse, quindi a reclutare giocatori, cavie, diciamo, ma insomma questa è la situazione del momento. Ok, un'ultima cosa prima di lasciarci, che chiedo un pochettino a tutti: qual è il miglior consiglio che ti senti di dare a chi si tuffa in questa esperienza dello sviluppare giochi? Allora, do un consiglio impopolare, che anticipa un consiglio che ho scritto in un'altra intervista, diciamo, un'altra chiacchierata che ho fatto con Andrea Ligabue per la rubrica che tiene anche lui, che tiene per con dei game designer. E il consiglio è: sii pronto a smettere. Cioè, mi spiego meglio. È brutto, è impopolare, però mi spiego meglio. E non è detto che sia sempre questione di tempo o di fortuna. È un'attività, è una passione, richiede passione, richiede anche però un po' di competenze, un po' di studio, applicazione, eccetera. Quindi è anche un po' di talento, probabilmente. Per cui non è detto che sia per tutti. Cioè, come se io non vado a fare l'avvocato, no, e dire che ci vuole fare l'avvocato, no? Non mi metto a fare il venditore e dire che ci vuole fare il venditore, citando le professioni dei miei due compagni di viaggio. Per cui non è neanche detto, cioè, che tutti siano in grado di fare senza fatica l'autore di giochi, o meglio, magari tutti sono in grado di farlo a costo di fare fatica e di applicarsi. Però se uno non è pronto ad affrontare le frustrazioni, o meglio, in un certo momento vede che le frustrazioni hanno la meglio sulle soddisfazioni che uno prova, allora lascia perdere. Insomma, non è... vedo tanta gente che lagnina, no, nel mondo degli autori di giochi, che dice perché lui sì e io no, ma guarda che gioco del cavolo che hanno pubblicato, il mio era molto meglio, ma guarda questa risposta dell'editore incomprensibile, non hanno capito niente, no? Non è sempre così, no? Cioè, bisogna essere anche un po' pronti a vedere i difetti dei propri giochi. Insomma, non è questione che se ne faccio 100 il centesimo, cioè, riprendendo la massima di prima, non è detto che se i primi 100 li butto il 101esimo va bene. Dai primi 100 devo imparare a fare il 101esimo, no? Se no butterò via anche i successivi 100 e i successivi 1000, insomma. Questa è un po' un consiglio che mi sento di dare, insomma, fallo se ti piace farlo. Se a un certo punto vedi che non ti piace farlo e che ti mangi le mani per i successi altrui o perché a te non va mai bene, lascia perdere. Bene, allora, rigirando questo concetto in una modalità un po' più positiva, se vi cimentate in questa esperienza di game designer, fatelo con l'ottica di usarlo come strumento di crescita per voi stessi e non come momento di arrivo. Sì, certo, aggiungo una cosa che non vorrei essere, scusatemi, che non vorrei essere frainteso su questo. Non vuol dire che fatelo solo per passione, no? O che deve essere una bella passione e niente di più. Cioè, ben venga chi trasforma l'attività di game design in una professione. E voi, quando vi mettete in quest'ottica, cioè di fare un gioco da tavolo, sai chi lo fa anche solo per giocare con i propri amici, ben venga. Però fatelo con l'ottica di muovervi in maniera professionale in questo mondo, no? Quindi non dico che fatelo per divertimento e tutto il resto chi se ne frega, ok? Però voglio solo dire, appunto, che vi deve piacere farlo, ecco, questo per una di tutto. Non dovete rosicare. Esatto, non state a rosicare. Va bene, grazie Paolo del tuo tempo. Grazie a te, grazie tanto a voi. Noi con i nostri ascoltatori ci ascoltiamo la prossima volta. Un saluto da Giochi sul nostro tavolo, da Federico. Da Paolo. E alla prossima.